get a good feeling, yeah. Il coordinamento lesbiche romane presenta I get a feeling that I never had before, no. È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto. I just wanna tell you right now that Trasmissione autogestita sugli 87.900 di Radio Onda Rossa. Allora, buonasera a chi ci ascolta, quella che sta per andare in onda sarà la nostra 325esima trasmissione. Oggi sentirete le voci di Caterina che vi sta parlando e Rosina. Puoi anche parlare, Rosina, c'hai il microfono aperto. Buonasera. Allora, l'argomento di stasera riguarda il disegno di legge Cirinnà e ci corre l'obbligo parlarne, visto il momento, ricordando che il disegno di legge riguarda l'introduzione e la disciplina delle unioni civili. Abbiamo studiato questa trasmissione di approfondimento programmando di farci aiutare con una diretta telefonica da Maria Grazia Sangalli, già nostra gradita ospite qualche tempo fa. Avevamo pensato a lei perché è la presidente di Rete Lanford. Purtroppo un suo improvviso impegno di lavoro ci ha costretti a dover registrare tutto oggi, cioè lunedì, e quindi la trasmissione che state ascoltando ora, martedì, sarà in differita. Ci scusiamo per l'inconveniente, ma non è stato possibile fare diversamente. Allora, ricordiamo che Rete Lanford è un'associazione di avvocate, avvocati e praticanti costituita nel 2007 allo scopo di sviluppare e diffondere la cultura e il rispetto dei diritti delle persone LGBT, lesbiche, gay, bisessuali, transgender e intersessuali. Allora, adesso mandiamo un brano musicale e poi entreremo nel vivo della trasmissione odierna. Un buon ascolto. Dancing to the music vibe, and the boys, just the girls in the hair, while they shout to men who just sit way over there. And the songs they get louder, each one better than before. And you're singing the songs, thinking this is a life. And you wake up in the morning, and your hip is twice the size. Where you gonna go? Where you gonna go? And where you gonna sleep tonight? And you're singing the songs, thinking this is a life. And you wake up in the morning, and your hip is twice the size. Where you gonna go? Where you gonna go? Where you gonna sleep tonight? Where you gonna sleep tonight? So you're heading down the road in your taxi for four, and you're waiting outside Jimmy's front door, but nobody's in, and nobody's home till four. So you're sitting there with nothing to do, talking about Robert Iger and his motley crew. And where you gonna go? Where you gonna sleep tonight? And you're singing the songs, thinking this is a life. And you wake up in the morning and your head is just the stars. Where you gonna go? Where you gonna go? Where you gonna sleep tonight? And you're singing the songs, thinking this is a life. And you wake up in the morning and your head is just the stars. Where you gonna go? Where you gonna go? Where you gonna sleep tonight? Where you gonna sleep tonight? In the morning and your hip is twice the size. Where you gonna go? Where you gonna go? Where you gonna sleep tonight? And you're singing the song, singing this is a life. And you wake up in the morning and your hip is twice the size. Where you gonna go? Where you gonna go? Where you gonna sleep tonight? And you're singing the song, singing this is a life. And you wake up in the morning and your hip is twice the size. Where you gonna go? Where you gonna go? Where you gonna sleep tonight? And you're singing the song, singing this is a life. Where you gonna go? Where you gonna sleep tonight? Where you gonna sleep tonight? rieccoci nuovamente con voi e appunto come ci potevamo aspettare in questi giorni lo scontro fra le varie parti politiche in merito alla legge è ovviamente particolarmente acceso. Del resto in Italia qualsiasi provvedimento che intenda apportare modifiche in materia di diritti civili e autodeterminazione, lo sappiamo, ha sempre provocato e provoca infinite discussioni e recriminazioni talvolta più che pretestuose. Si sarebbe portati a pensare che si tratti di un caso di difesa di rendite di posizione, tanto per usare un linguaggio liberista e non certamente liberale. Perché mai altrimenti ci si dovrebbe opporre così strenuamente all'allargamento di diritti che sono oramai dati per scontati per la più parte delle cittadine e dei cittadini, di diritti che praticamente ovunque le democrazie più avanzate ritengono diritti umani. La stragrande maggioranza dei paesi europei, infatti, si è dotata di dispositivi che normano le relazioni tra persone lesbiche e omosessuali in ossequio alla democrazia e alle direttive dell'Unione Europea. L'Italia, buon ultima fra i cosiddetti grandi d'Europa, siamo insomma abituate, ha impiegato la bellezza di 30 anni per arrivare forse a vedere una legge, non certamente rivoluzionaria, approdare in Parlamento. Complici l'arretratezza culturale del nostro paese, la miopia, la scarsa lungimiranza della classe politica e la sudditanza alle gerarchie cattoliche che in più occasioni e a vari livelli sono entrate a gamba tesa nel dibattito politico e nella società civile, scarsamente osteggiate o comunque fronteggiate con scarsa incisività dalle forze laiche del paese, oggi fra Family Gay e Family Day, con enorme ritardo, si prova di nuovo a mettere ordine in una materia che non permette ulteriori slittamenti. Ancora non sappiamo cosa esattamente resterà dopo il passaggio in aula dell'impianto originale del DDL Cirinna, anche perché lo ricordiamo, noi stiamo registrando questa trasmissione che voi ascoltate e quindi domani, cioè oggi per chi ascolta, ci sarà la seconda votazione in Parlamento sulla DDL Cirinna e quindi non sappiamo bene quale sia lo stato dell'arte, quale sarà in questo momento lo stato dell'arte e di fronte alla granitica salvezza del partito della famiglia naturale dobbiamo ancora riscontrare, questo è evidente già da adesso, l'ordine più o meno sparso in cui si muovono la parte laica del paese e i cosiddetti partiti di sinistra. Nella ricerca spesso ottusa di quale sia il giusto limite presso il quale fermarsi, dove sia lecito arrivare con la legge e dove no, a chi concedere graziosamente diritti di carattere legale e finanziario, ma non la possibilità di accedere all'affetto e alla continuità parentale, se considerare veri figli o figli dell'abominio, bambini nati grazie alla gestazione per altri, cosiddetto utero in affitto, o avuti per vie cosiddette più o meno naturali, ci sembra di essere tornati a tempi ancora più bui, quando esisteva un discrimine tra i figli naturali e illegittimi e i bei bambini nati da genitori cristiani nell'ambito dei sacri recinti. E si avverte nelle mille pretestuose recriminazioni di certa parte della politica l'intento chiaro di affossare una legge che, lo ripetiamo, seppure nella sua incompletezza, in qualche misura oggi porrebbe rimedio a molte storture. Il ministro dell'Interno, Angelino Alfano, ha già annunciato un referendum su questa legge, dimenticando forse che nonostante l'arretratezza culturale di questo paese, le grandi battaglie per l'aborto e il divorzio hanno avuto ben altro esito rispetto a quello che i maggioranti dell'epoca e la Santa Romana Chiesa auspicavano. Chissà se anche in questo caso la volontà popolare non ci riserverà qualche sorpresa. Lo vedremo a tempo debito, ovviamente, ma per il momento dobbiamo registrare invece ancora una volta l'intervento del Cardinale Bagnasco, presidente della CEI, che ha chiesto esplicitamente al Senato della Repubblica il voto segreto sulla legge. E possiamo dire che la storia si ripete. Nel 2007, infatti, il Cardinal Ruini fece pressing sui parlamentari sostenendo che le gerarchie cattoliche non avrebbero approvato una fuga in avanti rispetto all'approvazione della legge in discussione a quel tempo. E quel suo intervento, l'intervento di Ruini, affossò definitivamente i Dico. Però oggi siamo pronti a scommettere che oggi la Chiesa Cattolica farebbe veramente carte false per avere quel provvedimento, quello dei Dico, quello di Rosi Bindi, che era ancora più blando rispetto al DDL Cirinna. Comunque per una volta registriamo un fattore positivo, il Senato, nella persona del suo Presidente Grasso, ha risposto ribadendo la sovranità dell'Assemblea e dello Stato Repubblicano, lasciando intendere che non si accetteranno ingerenze. Sarà così? Vedremo. Senti, io ti devo interrompere perché nonostante reputi molto interessante quello che stai dicendo, forse se facciamo un breve stacco musicale diamo anche la possibilità a chi ascolta di digerire, sedimentare tutto. Ok? Beh, ci risentiamo fra poco. I don't need any shadow of love. You changed my life. We were as green as grass, and I was hypnotized from the first to the last kiss. Oh, shame, shame, shame. Shame is the shadow. Love. I jump for you into the fire. I jump for you into the flame. Try to go forward with my life, but just feel shame, shame, shame. Shame, shame, shame. Come si è arrivati al disegno di legge Cirinna? I primi disegni di legge in proposito, in merito a questo argomento delle unioni civili, sono stati presentati nel 1986, quindi esattamente 30 anni fa, grazie alla interparlamentare Donne Comuniste e ad Arci Gay, mentre la prima proposta di legge che non venne mai calendarizzata fu presentata da Alma Agata Cappiello, parlamentare socialista, che tra l'altro ci ha lasciate, ed era il 1988. Dagli anni 90 il numero di proposte di legge per disciplinare le unioni civili è aumentato grazie anche alla spinta del Parlamento europeo, che cominciava a chiedere la parificazione dei diritti di coppie gay e coppie eterosessuali. Sotto il governo Prodi, alla Camera dei Deputati, venne discusso un disegno di legge di Franco Grillini che richiamava i PACS francesi, il PACS Civil de Solidarité, fallito. E nel frattempo però alcuni comuni a livello locale istituirono i registri delle unioni civili, che avevano soltanto una valenza simbolica, anche se in alcuni casi a queste convivenze registrate veniva concesso l'accesso alle graduatorie degli alloggi popolari. I primi comuni italiani a dotarsi di questi registri furono Empoli e Pisa, e molti altri seguirono negli anni successivi. Le regioni Toscana, la Calabria, l'Umbria e l'Emilia Romagna nei primi anni del 2000 approvarono statuti favorevoli alla introduzione delle unioni civili, anche quelle omosessuali, provocando la risposta dell'allora governo Berlusconi, che impugnò gli statuti per una presunta incostituzionalità. Torniamo un attimo indietro sui comuni. La Spezia nel 2006 fu invece il primo comune italiano ad aprire il registro delle unioni civili anche alle persone omosessuali. Direi un'ottima prima. Esatto. Nel 2007, invece, l'anno successivo, i PACS francesi, che erano stati introdotti legalmente in Francia nel 1999, in Italia assunsero la denominazione di DICO, ovvero diritti dei conviventi. Ora una si chiede, una legge con il nome di un supermercato evidentemente sembrava troppo eversiva per i nostri politici, così i DICO vennero rinominati CUS, cioè contratto di unione sociale, ma cadde il governo Prodi nel 2008 e quindi la proposta si arenò nelle insondabili secche del Parlamento italiano. Nello stesso anno il ministro Brunetta, benemerito, se ne uscì con i Didore. Questa è più carina però, eh? Questa è molto più carina, devo dire, sì, è come una musicalità. E infatti, diritti e doveri dei conviventi, Didore, e qui possiamo dire che dal supermercato si arriva alla pianola per i bambini, però comunque niente paura, anche questa musica non suonerà perché la proposta giace ancora in Commissione Giustizia e non è mai stata esaminata. Esatto, visto che abbiamo parlato di Didore, sentiamo un altro brano musicale, ok, un altro stacchetto musicale, ci sentiamo fra poco. Armendro es sabía que la apariencia engaña por un armentro y sabía muy blanca daba las flores y las armentras amargas lo mismo que tus amores. E finalmente si arriva alla proposta disegno di legge Cirinna, che in realtà è un Cirinna bis, perché la prima stesura, ovviamente osteggiata da tutte le parti, è rimasta bloccata da mesi di ostruzionismo. Nello specifico, questo disegno di legge riguarda la registrazione della Costituzione e della cessazione delle unioni civili. Due persone maggiorenni possono iscriversi nel registro comunale delle unioni civili alla presenza di due testimoni maggiorenni anche loro. L'iscrizione viene fatta dal sindaco, da un suo delegato o dall'ufficiale dello Stato civile. Questa unione è certificata da un attestato che deve contenere i dati anagrafici delle parti. Per quanto riguarda le adozioni, il disegno di legge prevede la stepchild adoption, senti come lo dico bene? Mica come i nostri parlamentari. E cioè di che cosa si tratta? L'adozione del bambino che vive in una coppia dello stesso sesso, ma che è figlio biologico di uno solo dei due e che è già prevista dall'articolo 44 della legge sulle adozioni. Quindi non c'è niente di particolare. Non c'è niente di nuovo se non appunto che si tratta di una coppia omosessuale o lesbica e non di una coppia eterosessuale. In italiano questa stepchild adoption, che è così difficile da dire, in realtà sarebbe l'adozione del figliastro. Esatto. Anche quella è brutta, però è più facile da dire. Allora, il disegno di legge Cirinna parla anche di tutte le cause impeditive, cioè di tutte quelle condizioni per cui non è possibile iscriversi nel registro delle unioni civili. Ne accenniamo qualcuna, se una delle parti ad esempio è ancora sposata o legata da un'altra unione civile, se è minorenne, se è interdetta per infermità mentale, se è parente con l'altra parte della presunta unione civile, oppure se è stata condannata per omicidio consumato o tentato sul coniuge dell'altra. Cioè ammazzo la moglie e potrebbe diventare la tua seconda moglie dell'altra parte dell'unione. Dunque, questo testo riconosce alla coppia diritti di assistenza sanitaria, carceraria, unione o separazione dei beni, subentro del contratto d'affitto, reversibilità della pensione. Al momento questo è quello che c'è nel disegno di legge Cirinna. Vedremo in fieri che cosa succederà dopo le varie votazioni alla Camera, dopo i passaggi parlamentari al Senato, vedremo quanto di questo impianto resterà in piedi. Però io ricordo che tempo fa tu ci hai fatto notare una cosa, che in realtà già oggi non siamo tutti uguali, te ti va di dirla? Sì, certo, cioè, lo ricordiamo en passant. Perché sì, tanto per dire. Tutto per dire, perché in questo paese sono i cittadini e le cittadine sono tutti quanti uguali, però evidentemente qualcuno è più uguale di altri. Infatti, mentre la maggior parte dei parlamentari, non voglio dire tutti, non voglio buttare tutti il calderone, però è una cosa che si nota. Esatto, è una cosa che salta all'occhio. Infatti, mentre gran parte di questi parlamentari si affannano alla ricerca disperata dei modi più disparati, possiamo dire, scusate il bisticcio, per impedire che tutte e tutti possano avere accesso a pari diritti e opportunità, e nel frattempo ci raccontano la palla che un conto è la famiglia tradizionale, un conto tutte le altre cosiddette formazioni, questa dicitura orrenda, insomma ci corre l'obbligo di ricordare che nel 1990, e quindi la bellezza di 26 anni fa, quando forse il paese non era ancora pronto, infatti questa cosa passò sotto silenzio all'epoca, insomma non si sapeva molto, però non è che hanno dato molta pubblicità, non è che sia stata molto pubblicizzata, però adesso la sappiamo tutte da anni. E appunto nel 1990 è stata votata una legge per i soli membri del Parlamento, che prevede l'estensione dell'assistenza sanitaria ai partner conviventi more uxorio e riconosce loro anche la reversibilità della pensione, questo solo da qualche anno, e quindi li equipara sostanzialmente a coniugi legittimi. Certo. E vale per loro e per nessun altro. Vale anche in realtà per i giornalisti, però in questo caso cosa prima, ci sembra meno grave. Certo. Così giusto per dire sempre a passare, per contraltare il prefetto di Napoli lo scorso anno ha annullato l'atto di nascita del figlio di due donne lesbiche che si sono regolarmente sposate in Spagna. Il bambino si chiama Ruben, forse dovrei dire potrebbe chiamarsi Ruben, dovrebbe chiamarsi Ruben, non si sa, perché per assurdo, per questa allucinante manovra del prefetto napoletano, praticamente il bambino esiste in Spagna, ma non esiste in Italia. Certo. E quindi così vanno le cose nel bel paese. E, per finire, sarò vetero? Non lo so. Vorrei comunque leggere l'articolo 3 della Costituzione italiana, che comunque resta uno statuto straordinario. Prima che la cambino. Beh, l'hanno già sforbiciata a destra e a manca, certo. E devo dire che i risultati non sono stati fantastici. Chi la voleva utilizzare nel bagno insieme al tricolore, vabbè, adesso non starò qui a dire queste cose. Però questa è una Costituzione democratica con un impianto forte e straordinariamente avanzato per essere una Costituzione scritta appunto nel 46, così lontano nel tempo. L'articolo 3 della Costituzione italiana recita così. Tutti i cittadini, all'epoca non si usava il linguaggio sessuato, per cui adesso ce l'ho detto io, tutte le cittadine e tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine sociale che limitano di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del paese. Mi viene da chiedere, ma non sarà mica un articolo della Costituzione spagnola questo? Può darsi. Senti, mandiamo un brano musicale che è meglio, va? Allora, partiamo con le domande per Maria Grazia. Intanto ti diamo il benvenuto e partiamo subito perché le informazioni che vogliamo chiederti sono veramente le più disparate e sono anche tantine e prevedono delle risposte abbastanza complesse. Allora, volevamo fare dei piccoli cappelli introduttivi ad ogni domanda per far comprendere a chi ascolta il tenore di ciò che stiamo chiedendo. Allora, per volere del nuovo centrodestra, il disegno di legge Cirinnà è stato modificato e nel testo viene specificato che le unioni omosessuali sono in realtà formazioni sociali specifiche. Queste formazioni sociali specifiche sono soggette a diritti e doveri in base all'articolo 2 della Costituzione, non all'articolo 29 della Carta, che invece regola il matrimonio. Questa denominazione fa sì che le coppie omosessuali non vengano riconosciute come famiglie e ciò crea di fatto una discriminazione fra le cittadine e i cittadini etero, gay e lesbiche che scelgono di unirsi tra loro. Per questo ti chiediamo, ci puoi spiegare meglio quale situazione si verrebbe a creare e cosa la sua approvazione partorirebbe e perché? Buonasera a tutte, grazie di nuovo per questo invito. E, rispetto alla domanda, io devo essere molto chiara al riguardo. L'emendamento a cui fai riferimento è frutto di un pasticcio politico avallato dalla stessa relatrice prima firmataria del testo, che ha inteso tentare una mediazione tra coloro che volevano mantenere l'impianto del testo originario e quelli che volevano tracciare una separazione anche semantica tra l'istituto del matrimonio e le unioni civili. È chiaro che a prescindere da quello che sarà l'esito della discussione in Senato, quindi delle votazioni dei singoli articoli e dei rispettivi emendamenti su ciascuno di essi, questo preambolo segna in qualche modo una inammissibile disuguaglianza tra persone di sesso diverso che sono ammesse ad accedere all'istituto matrimoniale e persone dello stesso sesso che sono costrette ad un istituto differente, separato, anche lessicalmente non assimilabile al matrimonio, e in questo si configura certamente una discriminazione. Io ci vedo una forma di segregazione ed un'offesa alla dignità delle persone omosessuali e delle loro famiglie. Allora, quello che dici è sicuramente molto interessante, ma il problema è anche, secondo noi, e forse soprattutto politico. Politico perché, come dicevamo prima, qualora venissero approvate le unioni civili, il PD dovrebbe poter contare su una maggioranza che non ha, disposta a sostenere come passo successivo il riconoscimento di un matrimonio egualitario, proponendone l'estensione anche alle coppie dello stesso sesso. Questo per evitare di inciampare, come dicevamo anche prima, in una forma palesemente discriminante. Solo che vogliamo ricordarlo, e come ha ricordato Rosina prima, rifacendo un po' tutta la storia dei diversi tentativi che si sono susseguiti nel tempo, l'iter legislativo sul matrimonio egualitario giace al Senato dal 2013. Quindi l'altra domanda che ti facciamo è, prendendo in esame la situazione di oggi, ci puoi dire se nel disegno di legge Cirinnà sono presenti i rimandi agli articoli del codice civile relativi all'istituto matrimoniale? I rimandi espressi all'istituto del matrimonio sono stati soppressi già in sede di commissione. In questo testo sono presenti dei rinvii diretti ad articoli del codice civile che riguardano il matrimonio, ma non a tutti. Tra le norme che interessano i rapporti personali non vengono richiamati, per esempio, gli articoli 147 e 148 del codice civile che riguardano il rapporto tra genitori e figli. Nel riportare poi alcune disposizioni, alcuni articoli del codice civile, sono state soppresse le parole familiare e sono state sostituite con la parola comune. Se ad esempio i coniugi sono tenuti ciascuno in relazione alle proprie sostanze a contribuire ai bisogni della famiglia, così questa è la dizione del codice civile, le parti dell'unione civile sono invece tenute a contribuire ai bisogni comuni. La residenza non è più la residenza familiare, ma è la residenza comune. Diciamo complessivamente un'operazione di limatura e di erosione per rimarcare la differenza sostanziale tra questo nuovo istituto e il matrimonio. In un paese come il nostro, dove si parla continuamente di famiglia, di tutela, spesso anche a sproposito e in modo incoerente, sembra quasi assurdo che non si comprenda quanto accadirsi contro la possibilità di adottare il figlio del o della partner di fatto nega i diritti a bambini già nati. Riteniamo che la stepchild adoption sia un aspetto fondamentale del disegno di legge Cirinnà, perché è una forma di tutela dei minori. Quindi la richiesta che ti facciamo è: puoi parlarci più diffusamente della stepchild adoption, così fughiamo qualsiasi possibile incomprensione, visto che da tante parti viene portata avanti come una cosa non corretta. Di cosa si tratta e cosa cerca di garantire? Io non vorrei arrischiarmi ora in giudizi su un testo che è ancora in uno stato embrionale. Pendono ancora migliaia di emendamenti, molti dei quali intendono incidere sull'articolo 5 del testo, vale a dire sulla estensione della responsabilità genitoriale al partner dell'unione civile, quella che viene comunemente in modo non corretto dal mio punto di vista chiamata stepchild adoption. La stepchild la cosiddetta stepchild è un istituto che esiste già e consente l'adozione del figlio del coniuge. E con questo articolo, con l'articolo 5, non si farebbe altro che estendere questa possibilità al figlio del partner unito in una unione civile. Quindi non si tratta di un'adozione tout court per le coppie omosessuali, che invece è esclusa direttamente dal DL Cirinnà. È chiaro che le polemiche di queste settimane sono, a mio avviso, strumentali, e che la confusione tra i due istituti, adozione piena come cosiddetta stepchild, è funzionale, fa sì che si crei un movimento d'opinione contrario all'adozione in casi particolari, ovvero sia alla stepchild adoption. Allora, il disegno di legge Cirinnà si divide in due parti. La prima riguarda, come abbiamo visto, le unioni civili, mentre nella seconda si prendono in esame le convivenze. E quindi ci interesserebbe sapere, per ciò che riguarda le convivenze, le persone che rientrano nella tipologia scritta nel testo possono essere anche dello stesso sesso o si ipotizzano come destinatari solo persone di sesso opposto? E poi, quale tipo di relazione viene riconosciuta per accedere, diciamo così, ad eventuali benefici? Ad esempio, due amiche, zia e nipote? Ci sono dei vincoli o delle limitazioni, oppure il fatto di convivere già di per sé fa rientrare nella tipologia descritta da... E quali sono i diritti e i doveri reciproci previsti dal disegno di legge? Il titolo secondo del disegno di legge Cirinnà, che è dedicato alla disciplina delle convivenze, è, a mio avviso, la vera novità positiva di questo testo. Ed è una parte del disegno di legge che finalmente allinea il nostro paese alla maggior parte dei paesi europei occidentali. La regolamentazione riguarda sia le coppie eterosessuali che le coppie formate da persone dello stesso sesso, ed è mirata a fornire una tutela alle tante forme di convivenza di fatto. Per conviventi di fatto vengono intesi dal disegno di legge due persone maggiorenni che sono unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, che non siano vincolati da rapporti di parentela, affinità o di adozione. Possono disciplinare i loro rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune, stipulando un contratto di convivenza, e possono godere dei benefici che sono peraltro già riconosciuti dalla giurisprudenza alle cosiddette coppie more uxorio, quindi il subentro nel contratto di locazione, la partecipazione per esempio agli utili dell'impresa familiare, l'inserimento nelle graduatorie per l'assegnazione degli alloggi di edilizia popolare, il diritto di assistenza ospedaliera e di visite carcerarie, e importante la previsione dell'obbligo di mantenimento o dell'obbligo alimentare in caso di cessazione della convivenza. E per concludere una domanda secca: che ne pensi della bagarre su utero in affitto? Secondo te nasconde qualcos'altro? Io credo anche che la discussione sulla surrogazione la GPA, gestazione per altri, sia stata strumentalmente introdotta in questo momento storico per arginare le spinte sul tema della filiazione delle persone omosessuali. Non dico che non sia importante una riflessione su questo tema, ma mi aspetterei che venisse affrontata in modo serio, non dogmatico, e soprattutto conoscendo il contesto normativo nel quale ci troviamo ad operare. Nel nostro ordinamento la GPA è attualmente vietata dalla legge 40, quindi non serve una ulteriore previsione al riguardo. Ovviamente allo sfruttamento del corpo della donna occorre dire un fermo no, ma non si possono, io penso, escludere forme di donazione rispettose della volontà della donna, alla quale, aggiungo io, non si può imporre a prioristicamente una decisione su cosa fare del proprio corpo. Hacia la montaña cuando sale el sol, busca en el arco iris un nuevo color, no te conformes nunca con ser un pensador. ¿Qué es el amor? Pregúntale al jilguero, al río y a la flor. Él no tiene sendero, pero es andador, no necesita puertas, es camino. Y es que el amor, como todo lo que es bello, no tiene explicación. O el refugio y morada de algún soñador que jugando a poeta quiso ser un cantor. Y es que al final tendrás en tu inventario lo que llegues a amar. Después no tendrás tiempo de volver a empezar. Ahora es el momento. Inténtalo encontrar, inténtalo encontrar, inténtalo encontrar. El amor, una ventana abierta a la ilusión, es volar hacia el cielo con el corazón, sin miedo a la caída. Y es que el amor, como todo lo que es bello, no tiene explicación, es refugio y morada de algún soñador, que jugando a poeta quiso ser un cantor. Y es que al final tendrás en tu inventario lo que llegues a amar. Después no tendrás tiempo de volver a empezar. Ahora es el momento, inténtalo encontrar, inténtalo encontrar, inténtalo encontrar. Allora, avete ascoltato È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto, trasmissione a cura del coordinamento lesbiche romane nell'ambito del martedì femminista e lesbico autogestito sugli 87 e 900 MHz di Radio Onda Rossa. Avete la possibilità di ascoltarci in diretta attraverso il sito della radio, che è www.ondarossa.info, oppure tramite il nostro sito ufficiale, che è www.clrbp.it. In entrambi i casi basta cliccare sull'icona in diretta.